Che bel brano, vero? Potete condividerlo, ascoltarlo, riascoltarlo su YouTube, vi invito a farlo, è un bel messaggio anche da mandare ai nostri parenti, ai nostri amici su WhatsApp. Potete anche acquistarlo come brano, però detto questo, io vorrei che noi riflettessimo su un nome che è attribuito a Gesù e che abbiamo sentito in questo brano, Emanuele. Vi ricordate che nella narrazione dell'Evangelo di Matteo, e non solo in quella, quando Giuseppe è assonnato e sta dormendo, gli appare un angelo e questo angelo annuncia quello che sta per accadere. E a Giuseppe cita nel sogno un verso molto vecchio, antico, che si trova nel libro di Isaia, un verso che profeticamente anticipa il fatto che Gesù sarebbe nato da una vergine e il nome che viene attribuito al Salvatore è Emanuele. Infatti il verso che l'angelo cita in sogno a Giuseppe è il verso in Isaia, capitolo 7, versetto 14, se non ricordo male, e dice queste parole, e le leggiamo da Matteo: la vergine sarà incinta e partorirà un figlio. Versi che conosciamo, parole che conosciamo, al quale sarà posto nome Emanuele. Emanuele. E poi l'evangelista ci tiene a tradurlo per noi questo nome. Perché all'epoca i nomi che venivano attribuiti perché c'era una ragione dietro il nome che veniva dato. E traduce il nome Emanuele con queste parole, dice che tradotto vuol dire Dio con noi. Emanuele significa Dio con noi. Gesù, la nascita di Gesù, la venuta di Gesù ci annuncia qualcosa di estremamente importante. Dio è con noi. Dio è con te, Dio è con me. La nascita di Gesù ci annuncia questo, che non sei solo, ma Dio è con te. La narrazione dell'Evangelo va avanti e quindi l'evangelista che fa? Continua a narrare come nasce Gesù, come lui cresce, come cosa fa, cosa farà nella sua vita, le sue azioni, le sue opere, i prodigi che ha fatto Gesù. E poi descrive la sua morte, la sua resurrezione. Sapete come conclude l'Evangelo di Matteo? L'Evangelo di Matteo, che si conclude nel capitolo 28, conclude con queste parole. E queste parole ora sono le dirette parole che Gesù dice ai suoi discepoli. E lui conclude dicendo queste parole, dice: ecco, io sono con voi. Io sono con voi. Gesù viene annunciato da un angelo, quale Dio con noi, e ci lascia con un mandato: andate, fate discepoli tutti i popoli. E poi aggiunge: io sono con voi tutti i giorni, dice Gesù. Tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questa età presente è questo spazio temporale nel quale noi ci troviamo oggi, che è dal momento in cui lui è stato trasportato in cielo al momento in cui lui tornerà. Noi siamo ancora in questa età e la promessa che Gesù ci dà è che lui è con noi tutti i giorni. Lui è con noi tutti i giorni. I giorni nei quali tu stai bene, lui è con te. Nei giorni nei quali tu stai male, lui è con te. Nei giorni nei quali tu hai forze fisiche e ti senti bene e hai un buon stato d'animo, lui è con te. Nei giorni in cui ti senti abbattuto, sei triste, le cose non vanno bene, lui è sempre con te. Nei giorni in cui tu sei sano, lui è con te. Nei giorni in cui tu sei malato, lui è con te, perché quello che lui promette lo mantiene, perché lui è verità, verità incarnata. Dio è con te, Dio è con te ora. In questo momento posso incoraggiarti a comprendere questa verità. Gesù è con te, Dio è con te. Oggi, in questo giorno, Lui è con te. E queste parole sono incoraggianti, vero? Ciò che non è incoraggiante è il fatto che noi non lo vediamo, vero? Ciò che non è incoraggiante è che Dio è invisibile. Ed è per questo che a Tommaso Gesù dice: beh, tu hai creduto perché hai visto. dice: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Tu sai che Gesù è con te non perché lo vedi, non perché lo tocchi, non perché lo senti necessariamente, ma perché ci credi. Perché ci credi. Ed è la fede che abilita la tua esperienza di questo Dio vicino. È la fede che ti abilita a sperimentare la sua vicinanza ogni giorno. È la fede che ti abilita a toccarlo anche se non lo puoi fisicamente toccare. È la fede che ti abilita a vederlo anche se tu con i tuoi occhi naturali non lo puoi vedere. È la fede che ti abilita a sentirlo anche quando non c'è la possibilità di sperimentarlo appieno. Gesù ha voluto questo. Negli Atti degli Apostoli, che è il continuo della narrazione dei discepoli, dopo che Gesù va via, c'è questa immagine molto curiosa, che lui viene trasportato su. Negli Atti degli Apostoli leggiamo che viene portato su una nuvola. E i discepoli rimangono a guardare questa nuvola. E credo che sono rimasti a guardare un tempo così prolungato che Dio ha dovuto mandare due angeli. Noi leggiamo che due angeli apparirono ai discepoli per dire loro: perché state ancora guardando in su? E noi vogliamo vedere. Noi vogliamo toccare. Noi abbiamo degli occhi, noi abbiamo delle orecchie, noi abbiamo il tatto, noi vogliamo sperimentare questo Gesù. Ma Gesù dice: no, non c'è modo di vedermi, non puoi attingere a un'immagine, non puoi farti un'idea di me, devi esercitare la fede, non puoi toccarmi, non c'è un luogo dove puoi andare, puoi sperimentare il toccare Gesù. Lui è con te, è proprio vicino a te, e per farlo hai bisogno di esercitare la fede. Non puoi sperimentare la potenza di Dio nella tua vita andando o aspettandoti uno spettacolare evento straordinario da parte di un uomo di Dio, da parte di un guru, di un qualsiasi, per toccare con mano la potenza di Dio. No, la potenza di Dio è alla tua portata, è proprio vicino a te. Per viverla devi esercitare la fede. E infatti la definizione di fede è proprio questa. La fede descritta in Ebrei al capitolo 11, versetto 1, dice in una traduzione: è la piena fiducia in cose che non si vedono. È la piena fiducia di qualcosa che non vedi. È la piena fiducia del fatto che se Gesù ha detto: io sono con voi ogni giorno, tu ci credi. Ci credi quando ti alzi e sei nel pieno vigore spirituale, ci credi quando ti alzi e non sei vigoroso spiritualmente. A volte ci chiediamo, no? Dov'è Dio? Vorremmo tanto vederlo. Forse tu questa mattina lo senti lontano, senti Dio così lontano. E non ti biasimo affatto. Tutti noi sperimentiamo, tante volte io sperimento questo, che sento Dio lontano, lo sento molto lontano da me. Ma sapete cosa? Non è che è Dio lontano, è la nostra fede che è debole. Lui è vicino, perché Lui mantiene le sue promesse. Ed è qui che ti voglio incoraggiare ad avere fede. Stamattina, tutti noi, che tu sia credente da anni, che tu sia qui per la prima volta, esercita la tua fede. Come puoi esercitare la tua fede? La fede viene dall'udire la parola di Dio. In questo momento io sto alimentando la tua fede perché sto leggendo dalla parola di Dio, dalla Bibbia. La fede viene con la scelta di non affidarsi completamente ed esclusivamente a quello che vedi, a quello che tocchi, a quello che sperimenti con i tuoi sensi. Vuoi avere fede? Non affidarti a quello che vedi. Affidati alle promesse di Dio. Dio è con noi. Dio è vicino. Nel mondo nel quale viviamo, troppo spesso sentiamo la domanda: ma dov'è Dio? Dov'è Dio? Ora che ci sono le guerre, ora che ci sono queste situazioni terribili e tutti noi le vediamo ogni giorno, i notiziari ci parlano di cose negative, dov'è Dio? Dov'è Dio? E sapete qual è il problema di questa domanda? Che in fin dei conti con questa domanda noi stiamo attribuendo a Dio una responsabilità che non è sua. In fondo questa domanda è un giudizio. Noi stiamo giudicando Dio e posso incoraggiarti stamattina a riformulare la tua domanda. Smettila di chiederti dov'è Dio e comincia a chiederti dove sono io? Dove mi trovo oggi? Dov'è la mia fede? Gesù è vicino. Lui è proprio qui ora. Lui è al fianco tuo e al fianco mio. Perché Lui mantiene sempre le promesse che dà. E Lui vuole intervenire, vuole manifestare la Sua potenza nella tua vita, vuole darti modo di vederlo, vuole darti modo di toccare la Sua presenza. Tu puoi toccare la presenza di Gesù. Ma lo ripeto, il mezzo che abilita la tua esperienza di Dio nella tua vita è la fede. Non c'è un altro mezzo. Non puoi pretendere che Dio torni ora, in questo momento, si manifesti fisicamente, perché se questo accadrebbe, sarebbe già troppo tardi. La tua scelta oggi è quella di credere in un Dio che è invisibile e sebbene invisibile è molto presente. E io voglio pregare perché questo è il vero Natale, Dio con noi. Questa è la vera esperienza. E toccare con mano il significato della nascita di Dio, dire io non voglio affidarmi alla mia vista, ai miei sensi, ma credo che Lui è a fianco mio e voglio parlare, voglio dialogare con Lui, voglio coinvolgere Lui nella mia vita. E questa è una scelta che tutti noi possiamo fare. In queste feste, la mia preghiera è che noi non possiamo festeggiare la festa, ma possiamo festeggiare il festeggiato. E il festeggiato di questa festa è Gesù. Il mio vero augurio è che tu in questo Natale possa incontrare quel Gesù che tutti festeggiano e pochi conoscono e pochi sperimentano. La mia preghiera è che tu possa, a partire da oggi, attraverso questo piccolo seme che ho messo nel tuo cuore, alimentare la tua fede. E io voglio pregare, perché la preghiera è il mezzo per avere fede. Quando noi preghiamo, noi rivolgiamo la nostra parola a quel Dio invisibile. La preghiera è un atto di fede, perché o sei pazzo e stai parlando alle quattro mura attorno a te, oppure hai fede e ti stai rivolgendo a un Dio che non vedi, ma che sai che ascolta e che sai che opera. Questa è la preghiera. E io stamattina ti voglio invitare a pregare con me. E a esercitare la tua fede. Vogliamo farlo insieme, vogliamo alzarci in piedi. C'è un verso ultimo che voglio leggervi. Si trova in Giacomo, sempre nella parola di Dio, e dice questo: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Avvicinatevi a Dio. E io voglio invitare tutti noi ad avvicinarci a Dio. Non c'è chi deve avvicinarsi di più e c'è chi deve avvicinarsi di meno. Io voglio avvicinarmi a Dio in questo momento e credere nell'impossibile. Credere che il fatto che Lui è a fianco a me mi permette di intraprendere un percorso straordinario dove vedo i Suoi miracoli e la Sua potenza manifestata nella mia vita. E questo è qualcosa che anche tu puoi credere questa mattina. Forse sei venuto con una malattia in questo luogo, puoi credere che Lui interverrà toccando il tuo fisico e guarendoti dalla malattia. Forse sei venuto qui in una stagione di tristezza, abbattimento per notizie negative, esperienze negative, puoi affidarti a quel Dio che interviene e la Sua potenza è talmente forte che Lui può addirittura, lo leggiamo nei Vangeli, calmare le tempeste e fermare i venti. E lo può fare nella tua vita. Stamattina Lui è vicino, Lui è con noi. È proprio qui. Vorrei che tutti noi chiudessimo gli occhi e se hai libertà di farlo con me, ti chiedo di alzare le tue mani in segno di arresa. Se questa mattina desideri sperimentare di più della sua presenza e spogliarti un po' di quel pregiudizio, di quei dubbi che ti tengono distante da Dio. Questo è un momento importante che possiamo vivere insieme, dove scegliamo di non affidarci a quello che vediamo, tocchiamo e percepiamo con i nostri sensi, ma esercitare la fede in quel Dio che può ogni cosa. Padre, io ti ringrazio per le tante mani alzate in questo luogo, in segno di arresa, è la mia preghiera, e che tu possa far sentire il tuo tocco, la tua parola, che noi non possiamo percepirti lontani, ma ogni dubbio che ci allontana da te possa essere tolto e possa essere sostituito da una fede che cresce in colui che ha promesso che ci sarà ogni giorno vicino. Tu sei vicino a noi oggi, in questo giorno sei vicino a chi soffre, sei vicino a chi ha dubbi, sei vicino a chi è confuso in questo momento, sei vicino a chiunque qui in questo luogo e chiunque si avvicina a te, tu ti avvicinerai a loro perché questa è una tua promessa. La mia preghiera è di farlo in me. Io voglio sperimentarti di più. Io voglio sperimentarti di più nella mia vita. La mia preghiera è che ogni persona che è qui, sinceramente coinvolto in questa preghiera, la mia preghiera è che tu possa essere ancora più coinvolto nelle nostre vite, che noi possiamo sperimentarti di più. Questa è la nostra preghiera. Io prego nel nome di Gesù che malattie siano guarite. Io prego nel nome di Gesù che oppressioni, tristezza possano sparire in questo momento nel nome tuo, Gesù, perché tu sei qui, sei presente, sei vicino. La mia preghiera è chiunque smarrito questa mattina possa trovare la via maestra e possa godere di quel destino di vita che tu hai per lui, per lei. Nel nome di Gesù faccio questa preghiera per tutti noi in questo momento. Amen. Amen. Amen. Mentre manteniamo gli occhi chiusi, continuiamo a pregare. Io vorrei pregare in modo particolare per chi questa mattina per la prima volta decide e sceglie di far entrare Gesù nel proprio cuore. Forse è una scelta che non hai mai fatto ed è molto semplice, è la scelta di avere una relazione con Gesù. Lui ti sta tendendo la mano in questo momento e se sei qui questa mattina io credo che non è un caso, non è solo perché hai risposto a un invito che ti è stato dato, ma è perché Dio ti ha voluto in questo luogo, perché Lui vuole incontrarti, Lui vuole vivere con te, Lui vuole entrare nel tuo quotidiano, Lui vuole farti sentire la sua presenza ogni giorno. Ogni giorno nella tua vita. E io voglio pregare per coloro che dicono sì, io vorrei tanto sperimentare questo Gesù. Non un Gesù religioso, non un Gesù di storie che ho sentito, ma un Gesù che è vicino, un Gesù che è Dio, che è capace di ogni cosa e che mi promette di essermi vicino. Io voglio quell'appartenenza, io voglio questa relazione. Se tu questa mattina vuoi relazione con Gesù, vuoi chiedere a Lui perdono per i tuoi peccati, per le tue mancanze e vuoi sperimentare Gesù vivo a partire da oggi, io ti chiedo, mentre tutti noi abbiamo gli occhi chiusi in preghiera, di alzare la tua mano dove ti trovi affinché io possa pregare per coloro che questa mattina dicono sì, io desidero Gesù nel mio cuore, nella mia vita. C'è qualcuno? Grazie, grazie. Vedo diverse mani che si stanno alzando. Grazie. Fallo senza imbarazzo, senza timidezza. Non c'è ragione, non sono queste le cose che dovrebbero vergognarci. Sono altre cose che dovrebbero vergognarci. Ma questa è una scelta meravigliosa che tu fai nella tua vita. E se quello che desideri, il tuo atto di alzare la mano è un atto di fede. È un atto nel quale tu dici, io non ti vedo Gesù. Non ti tocco in questo momento. Ma io ci sono e voglio sperimentarti nella mia vita. C'è qualcun altro che dice sì? Mirko, includi anche me in questa preghiera. Alza ora la tua mano, dovunque ti trovi. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie, grazie. Puoi ripetere con me questa preghiera? In modo particolare tu che hai alzato la tua mano, ti chiedo di ripetere queste parole in preghiera. Voglio aiutarti a pregare a quel Gesù che ti è vicino e che stamattina vuole fare un'opera nuova in te, vuole darti un nuovo inizio. Voglio invitare tutta la Chiesa a ripetere con me, così che possiamo accompagnare queste persone in questa preghiera nella quale accogli Gesù nel tuo cuore e nella tua vita. Ripetete con me: Signore Gesù, ti invito nel mio cuore, ti invito nella mia vita, ti invito nelle mie giornate, voglio vivere con te, voglio sperimentare te, perdona i miei peccati e dammi un nuovo inizio, fammi vivere la vita piena e abbondante che tu hai prestabilito per me. Io prego oggi, sia fatta la tua volontà. E io prego oggi, dammi fede di credere in te e di camminare non più da solo, ma di camminare con te. Voglio seguirti e voglio vivere per te. Amen. Amen. Amen. Sì, facciamo un forte applauso. E lo facciamo a quel Dio che è vivo e che ti ama e che è qui. Amen. Lui è qui. Lui è qui. Lui è vicino a noi. Lui è vicino a te. Alleluia. Adoriamolo insieme.